Sì, io che stamattina sul Prestino ho aperto il cellulare e ho letto un messaggio che mi ha dato molta consolazione. Una delle persone a cui mando le mie prediche mi diceva: è bellissima la prima lettura di San Giovanni, capitolo quinto, versetto 14 e seguenti. Potrebbe commentarla stamattina? Io ero felice perché dicevo, io non manco al mio dovere di commentare, ma finalmente comincio a vedere della gente che si alimenta lui, da solo, della parola di Dio. E non è l'unica persona che ha provato a mandarmi messaggi così. Ho detto, quando un cristiano ascolta bene un'omelia, impara tanto, ma quando un cristiano impara lui a leggere di testa sua, con la sapienza dello Spirito Santo, le letture, allora è a posto. Non deve più aspettare che gli piova addosso la parola di Dio. Ormai ha un pozzo nel suo terreno. Ha scavato un pozzo, ha trovato l'acqua. Adesso può bere da solo, da sola. Naturalmente io non rinuncio a fare la mia parte e a commentare, anche perché mi piace la parola di Dio. E prima di commentarla a voi, c'ho qui la mia tenda che è tutto un campo di battaglia, sottolineato e frecce, un cerchietto, perché la gusto io, e poi ho piacere di commentarvela. Allora, anzitutto c'è un insegnamento. Qualunque cosa chiediamo a Dio secondo la sua volontà, egli ci ascolta. Capite, amici, che questo è un'indicazione straordinaria. Noi dobbiamo chiedere a Dio, sia fatta la tua volontà, e io te la chiedo. Signore, ti chiedo anche l'impossibile, se è tua volontà. Signore, ti chiedo la guarigione dalla salute di questa persona affinché tu ne faccia un operaio del Vangelo. E poi a quel punto vedremo se quello che abbiamo chiesto era volontà di Dio o no, se ci ascolterà o no. Ma non dobbiamo dire Dio non ci ascolta. Sia fatta la tua volontà. Premettiamo sempre a ogni richiesta, Signore, se ti piace, o Madonna, se vuoi, concedimi, dammi. E dice, e chiediamolo con la certezza di averla già ricevuta, sappiamo di avere già quanto abbiamo chiesto. Perché se non ci dà quella cosa che abbiamo chiesto, ce ne dà un'altra più giusta. Quante volte nella vita io l'ho sperimentato. Mi è capitato di chiedere una cosa e quella cosa non è avvenuta. Ne è avvenuta un'altra che a posteriori ho detto è molto meglio. È molto meglio. Per fortuna Dio non ha ascoltato la mia prima richiesta. Oh, cari amici, dobbiamo avere proprio questo rapporto di confidenza con il nostro Signore. Poi c'è un'altra frase molto bella. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato, ma non un peccato che conduce alla morte, peccato mortale, preghi per lui. È fantastico. Noi facciamo esattamente il contrario. Se noi vediamo o sentiamo una persona che sbaglia, prima cosa lo critichiamo con gli altri, e facciamo due o tre peccati in un colpo solo. Oppure vediamo uno che sbaglia, se abbiamo confidenza, subito gli diciamo: ma no, ma non dovevi far così, non dovevi. e noi non sappiamo leggere il cuore suo, perché ha fatto così. Qui dice, tu vedi un tuo fratello che sbaglia, prega per lui. Oh cari cristiani, noi dobbiamo mangiarla la parola di Dio. Queste letture dobbiamo leggerle ancora l'anno prossimo, e fra 2 anni, e fra 3 anni, perché non le ricorderemo mai. Il nostro cuore è così stampato nel peccato. Certo, è stampato nel battesimo, ma poi arriva il demonio. È così corrotto, è stampato nel battesimo, ma è così corrotto nel peccato che noi siamo istintivamente portati a fare il peccato. Peccato che conduce alla morte e peccato che non conduce alla morte, dirà dopo. La Chiesa li ha un po' definiti il peccato veniale e peccato mortale. Peccato veniale vuol dire che può ottenere venia, perdono. Peccato mortale dà la morte alla tua anima. Amici, io continuo a benedire Dio che mi ha fatto esorcista, perché io sto imparando un sacco di cose che gli altri neanche se lo sognano, compreso questo, cos'è un peccato mortale. Faccio un esorcismo di una persona realmente posseduta che deve essere trattenuta, deve essere bloccata, se no disfa la casa, e a un certo punto si presenta un'anima e si mette a piangere. E alla fine io chiedo chi sei, non mi risponde, insistendo nel nome di Dio ti ordino di dire chi sei, è mica vero che è la nonna che aveva maledetto la figlia, e dico guarda pregherò per te, e lei giù ancora a piangere, è troppo tardi, mi dice, è troppo tardi. E poi mi dice nel suo dialetto, se avessi saputo, un'anima dannata, per la quale è inutile pregare. Amici, ti viene addosso una tristezza, ti viene addosso, e dici, ma perché non possiamo intervenire prima? Ma capite perché la Madonna continua a chiedere, pregate per la conversione dei peccatori? Dopo è tardi, se avessi saputo. Se avessi saputo, amici. C'è un peccato che conduce alla morte, che è irrimediabile. Bene, allora chiediamo, perché qui poi ce ne sarebbe da andare avanti ancora, eh? Tutto il mondo sta in potere del maligno, e non è l'unica volta nella Bibbia che si dice, qui in Giovanni capitolo 5. Si dice ancora Giovanni, capitolo 5, versetto 19, tutto il mondo giace sotto il potere di Satana. Bravi che venite a messa tutti i giorni, guardate, è un regalo che fate a voi stessi, è un regalo che Dio fa a voi, e io sono contento di celebrare questa messa insieme con voi.